140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Fabrique, Milano. Si chiama 9 ed è il loro nono album, subito in vetta alle classifiche. Sono i Negrita, che raccontano quello che pensano e come vivono oggi. Come viviamo? Viviamo da, purtroppo, da adulti. Perché siamo tutti pari di famiglia e quindi abbiamo dei bambini con tutte le responsabilità accessorie. Unitamente a questa esperienza fantastica, che è la paternità, c'è un altro tipo di paternità che è quella che te dai a tutto il lavoro che riguarda la musica. Continuiamo ad avere i sogni di gioventù veramente tirati per i capelli, perché sono sogni importanti, e quando i sogni in qualche modo si diventano materia, perché si realizzano, non puoi fare altro che continuare su questa strada, assecondarli, cercare di farli con una, mi riallaccio all'inizio, con un po' di maturità in più, però sempre lasciando quel lato bambino acceso sull'on, insomma, sempre attivo, perché altrimenti l'indurimento caratteriale, mentale è dietro l'angolo, e questo è un pericolo da evitare come la peggior malattia. Io esco ora da una separazione, che è un'esperienza. Ma entri in una separazione, più che esci. Sì, in effetti ne sono dentro ancora. E, ci si rende conto, date anche le ore che dedichi sia ai bambini che al lavoro, fa parte della nostra missione entrare per 3 minuti e 50 nella vita di milioni di persone, perché quando tante radio trasmettono il tuo pezzo raggiungono milioni di persone. Anche questa è una grossa responsabilità, soprattutto in tempi in cui il malumore serpeggia ovunque. Quindi la responsabilità è, se vuoi, è molto grande. Il tempo passa dritto, non prova nostalgia, e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria. Generazioni in ciclo, con le loro convinzioni, che mescolano i sogni a una manciata di canzoni. La vita è un uragano che ci strappa le vele. Del malumore di questi tempi, lo avete affrontato ad esempio anche in mondo politico, ma anche in tanti altri testi, come ad esempio quello di Poser? C'è un po' di disagio nei confronti di come è stata l'evoluzione del mondo attorno a voi da quel 1989? Guarda, hai colpito nel segno, secondo me, perché 1989 è esattamente un pezzo che dice questo, che il mondo sta cambiando, e per noi stava cambiando, speravamo in positivo, perché comunque siamo stati fortunati e viziati dal fatto che essere cresciuti negli anni 80 è sinonimo comunque di benessere, insomma le nostre famiglie, non al contrario di magari le generazioni dei nonni, i nostri genitori non hanno vissuto la fame, anzi tutt'altro. Negli anni 80 comunque molta Italia si è arricchita, insomma perlomeno ha visto entrare il benessere vero, ma anche il surplus all'interno delle proprie case. Quindi è vero che in quegli anni lì, cioè noi siamo una generazione viziata, molto viziata da questo, e, che pian piano ha visto pian piano sfumare tutte le sicurezze che si erano accumulate, diciamo, negli anni 70-80, negli anni 70-80. E questa cosa è grave, perché deprime. Se c'è qualche mente più fragile di altre, può essere soggetta a questo, all'insicurezza, alla depressione, alla paura, perché poi tutta questa paura si è manifestata in qualcosa di concreto, insomma una crisi vera è arrivata, è una crisi che quasi nascondiamo sotto il tappeto, perché molti si vergognano di manifestare la propria povertà, diciamo, ottenuta invece da una situazione in cui stavano meglio. Visa saluto di cuore, numerini sul web. La mia scuola è più vecchia, sia del pop che del rap. Dal vinile rigato fino all'MP3, solo vita vissuta e niente talent per fake. Dalle prove in cantina ad occupare la radio, dagli applausi di pochi fino ai cori da stadio. Questo è il mondo reale, ma non fa per te. Questo è un periodo in cui si sta appiattendo tutto, è l'epoca del format, e il format non ha niente di umano. Cioè l'umanità è un insieme di picchi, alti, bassi, di colpi di testa, di invenzioni, di idee geniali, di idee fallimentari che hanno fatto morire anche milioni di persone. Però l'umanità non appartiene a una griglia, non potrà mai appartenere a una griglia. È per questo che noi, credo anche inconsciamente, in qualche modo abbiamo voluto recuperare un certo tipo di musica verità. Dobbiamo riappropriarci delle basi vere per poi avere una sicurezza successiva che ci porti ad avere quindi anche un futuro dignitoso e decente. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con I Negrita. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.